24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Il 30 agosto 2013, dal Giardino delle Rose della Casa Bianca, il presidente Obama. Ho deciso che gli Stati Uniti dovranno intraprendere azioni militari contro gli obiettivi del regime siriano. Ma resta solo. L'8 settembre Papa Francesco lancia il suo messaggio contro questa guerra. È davvero una guerra per problemi? O è una guerra commerciale per vendere queste armi nel commercio illegale? 3 giorni dopo, Vladimir Putin scrive una lettera direttamente al popolo americano. La pubblica il New York Times. Bisogna interrompere l'uso del linguaggio della forza e tornare alla diplomazia. E la Russia così ritorna centrale nella diplomazia mondiale. E poiché tutto si tiene nella politica globale, le ripercussioni non si fanno attendere anche nel rapporto Iran e Stati Uniti. Rouhani, il nuovo presidente iraniano, parla all'Assemblea Generale dell'ONU. L'Iran non costituisce alcuna minaccia per il mondo o per il Medio Oriente. 3 giorni dopo, la telefonata storica di Obama a Rouhani rompe il muro di silenzio tra le due nazioni. Netanyahu è contrario alla trattativa. Il 20 novembre da Mosca dice: l'Iran deve interrompere tutte le procedure di arricchimento dell'uranio, trasferire fuori dai propri confini le scorte di uranio arricchito, smantellare le centrifughe e interrompere la costruzione del reattore ad acqua pesante di Arak. Ma alle 3 si raggiunge un accordo. I negoziati mozzafiato di Ginevra si sono chiusi allentando le sanzioni all'Iran, che deve rinunciare all'arricchimento dell'uranio oltre il 5%, interrompere l'acquisto di nuove centrifughe e disfarsi dell'uranio arricchito al 20%. Obama commenta: oggi la diplomazia ha aperto un nuovo cammino verso un mondo più sicuro. Netanyahu replica: non è un accordo storico, è un errore storico. Questo accordo non ha reso il mondo un posto più sicuro, lo ha reso un luogo molto più pericoloso. Questo in sintesi è quello che è successo da agosto a oggi nel Medio Oriente. È un accordo discusso ma certamente storico tra USA e Iran. Fiamma Nirestan, giornalista esperta di questioni del Medio Oriente. Ecco, Fiamma, il mondo oggi è più pericoloso anche secondo te, come dice Netanyahu? Ma io direi di sì, tutto sommato. Ecco, ci sono vari modi di guardare a questo accordo. Naturalmente c'è chi vede il puntino rosa nel nero e chi vede invece il nero in mezzo a un mare di sorrisi che secondo me sono ingiustificati. Ora, perché? Adesso cerco di spiegare la ragione. Dunque, c'è stata, te ti ricorderai che c'è stata una risoluzione dell'ONU che dava delle sanzioni pesanti all'Iran, che poi sono quelle che lo hanno costretto a venire a un tavolo delle trattative, perché non è stata una cosa di buona volontà, è che si sentiva strangolato. Sì, d'accordo. Ecco, e questa dichiarazione del Consiglio di Sicurezza diceva che se l'Iran avesse smesso di arricchire l'uranio tramite queste centrifughe che ormai sono installate nel numero di 18.000, e ci sono tutte, sono ancora lì e nessuno le smantellerà, allora le sanzioni sarebbero decadute. La realtà dei fatti è molto diversa. Dentro questo in funzione però delle centrali Fiamma sono solo 10.000, mi pare, No, sono 18.000, Giovanni. Guarda, tutte in funzione, non importa, d'accordo. Sì, d'accordo. Sono 18.000 ed erano 9.000 quando si cominciò a parlare di questa storia, quando Obama fece il suo primo discorso. Andiamo avanti. Da allora sono aumentate furiosamente. Sì, però ecco. per Obama questo di ieri è un accordo storico. Posso dirti perché non lo è invece. Sì, storico. Ma io volevo dirti che Obama e Netanyahu non sono mai stati così lontani. Beh, va bene, insomma, questo non è molto importante. L'importante è se uno dice la verità oppure se mente, no? Sempre nella vita è così, io la vedo perlomeno in questa maniera. Allora, quello che sta succedendo qui è questo. È la prima volta nella storia che l'Iran riceve dal consesso internazionale il permesso di arricchire l'uranio. È vero, lo può arricchire soltanto fra il 3,5 e il 5%, mentre prima lo arricchiva quanto voleva. E per fare una bomba atomica l'uranio deve essere molto arricchito, persino oltre quel 20% a cui oggi deve invece froserare quello che ha già arricchito a quel livello. Però per fare questo ci vuole soltanto che cosa a questo punto dell'accordo? Una decisione politica. A questo punto loro hanno deciso di non arricchire perché non gli conviene, perché così hanno ottenuto che le sanzioni, perlomeno in parte per 8 miliardi, vengano fermate. O forse però vogliono anche, forse vogliono anche cambiare linea e andare verso un percorso di pace, è anche possibile Giovanni, questo, non no? Non c'è nessun segnale di questo, c'è solo un segnale che loro desiderano, e questo lo ritengo una cosa del tutto legittima, che le sanzioni vengano abbassate, perché certo, gli creano tuttora dei problemi molto molto seri. Questo è quello che si vede. Quello che si vede invece è che Rouhani è quel personaggio che, lanciando questa iniziativa del sorriso, insomma, come è stata chiamata dappertutto, ha portato all'ONU un clima diverso da quello che portava Ahmadinejad con le sue maledizioni lanciate a destra e a manca. È un personaggio che è stato un guardiano della crescita nucleare, che ce l'ha messa proprio tutta. Basta andare a vedere su YouTube, durante la sua campagna elettorale lui rivendicava proprio di essere stato colui che aveva consentito al programma nucleare di andare avanti. Però, che poi Fiamma, posso dire ancora sì, una cosa e poi certo, taccio? No, tacci, ti devo fare delle domande. Certo, io ti lascio subito dire. Finché poi si arriva al discorso di Khamenei, la guida suprema di 3 giorni fa, che davanti a una folla immensa di questi guardiani della rivoluzione ha ripetuto che Israele è un gruppo di sionisti che sono dei cani rabbiosi, ho detto così, che devono essere eliminati, e poi tutti insieme hanno urlato allegramente morte all'America, e questo è durato lungamente. Non mi sembra un gran segnale di cambiamento. Senti, però mi sembra che in Israele le posizioni siano molto molto diverse. Per esempio Peres dice che saranno i fatti a stabilire la buona riuscita dell'accordo di Ginevra, cioè non ha una pregiudiziale immediata. Non solo lui, ma anche l'ex capo del Mossad dice qualcosa di analogo. Quindi mi pare che non tutti la pensano come Netanyahu, e come mi sembra che anche tu la pensi, no? Guarda, io credo questo, insomma, che Peres sia un personaggio, diciamo così, che politicamente ha sempre avuto il dovere, il ruolo di esprimere un certo tipo di posizione pacifista, la speranza di Israele di poter arrivare finalmente a un universo, soprattutto a un Medio Oriente pacificato, e trovo che in questo svolga un ruolo meraviglioso, e un mio grande amico, io lo ammiro per questo. Ecco, quindi, questo fatto concreto ha una posizione diversa da quella di Netanyahu. Io non credo che ho letto quello che ha detto. Guarda Giovanni, tu guardi quello che ha detto, certo, e lui ha detto che bisogna verificare nel prossimo di questi 6 mesi, perché questo è un accordo ad interim, certo, va bene? No, dura 6 mesi, lo so bene. Ecco, e verificare sarà difficilissimo, tanto è vero che nel 2003... Però hanno accettato gli osservatori dell'ONU vadano a controllare. Anche prima l'avevano accettato e li hanno ingannati, tanto che nonostante nel 2003 sembrasse a tutti quanti che si era arrivati ad un accordo, di fatto hanno seguito. Siamo arrivati, diciamo che è un punto di partenza, mi pare che non si possa solo interpretare in negativo. No? Era già stato nel 2003, stato osservato. Ok, Giovanni. Comunque resta il fatto che Putin, mi sembra che in questa vicenda riacquisti una... c'entra, avendo chiesto direttamente, scrivendo la lettera al New York Times, di tornare a diplomazia e politica, mi sembra che sia andato così, e mi sembra che in qualche modo sia diventato di nuovo centrale nella politica internazionale. Sei d'accordo su questo? Sì, sono d'accordo su questo. Credo che Putin abbia svolto quel ruolo che cerca di attribuirsi da tempo, cioè quello di occupare tutti gli spazi lasciati vuoti da quando ci sono state tutte queste rivoluzioni medio orientali, ovvero da 3 anni a questa parte, dagli Stati Uniti d'America, che purtroppo, perché io ci sono affezionata agli Stati Uniti, a Obama, eccetera, hanno lasciato, ne hanno sbagliate tutte, dalla valutazione della rivoluzione in Egitto al modo di considerare la questione siriana, hanno lasciato talmente tanti vuoti aperti che Putin, che secondo me è il più smart, è il più furbo, è il più audace, un vero uomo del c'ha una politica, c'ha una politica di potenza, e questo è del tutto legittimo da parte sua, insomma, c'ha una politica in cui lui vuole restituire dire alla Russia, stavo proprio già dicendo all'URSS, il ruolo che aveva l'URSS a suo tempo, e ci sta riuscendo in gran parte, perché vedi, lui è riuscito ad avanzare in questo modo quell'asse che lui sostiene, che è quello Iran, Siria e Hezbollah. Questo è l'asse che vince in questo momento in Medio Oriente. Senti, ma Israele quindi, secondo te, non lo voleva assolutamente arrivare a questo accordo? Non voleva assolutamente arrivare a questo accordo? No, Israele non voleva, non arrivare. Scusa Giovanni, cerchiamo di essere chiari. Israele voleva arrivare ad un accordo, voleva arrivare a non un accordo che l'ha detto molto chiaramente, che imponesse all'Iran di smettere di arricchire l'uranio, facesse sì che l'uranio Khamenei consegnasse, o Rouhani, chi ti pare, consegnasse tutti i materiali già arricchiti al consesso internazionale, a chi non importa, cioè che cosa, come ha detto l'altro giorno Netanyahu a Putin, gli ha detto hai fatto molto bene a chiedere ai siriani di consegnare le armi di distruzione di massa, magari si facesse lo stesso con gli iraniani, Fiamma, ma questo non è stato fatto, però gli resta anche tutto in mano, capisci? Gli resta tutto in mano. Fiamma, ecco, anche il ministro degli esteri Bonino, che non è certo nemica di Israele, dice che questa è una chance per tutto il Medio Oriente, bisogna agire con prudenza, ma l'occasione è una di quelle occasioni da non perdere. Guarda Giovanni, io credo che chi conosce bene la cultura iraniana, chi la studia da anni, come tanti esperti della questione, sa che l'Iran farà di tutto per ingannare l'Occidente su questa questione, perché ha un'ambizione, e questa ambizione è quella di essere il leader sciita indiscusso, va bene, di tutto quanto il Medio Oriente e forse anche del mondo intero. Senti. Per fare questo l'elemento bomba atomica è indispensabile, e quindi è quello che cercherà di fare. Cercherà di farlo, se non lo fa. Io dico, per adesso la strada presa è quella di non fare la bomba atomica. Per adesso la strada presa è quella di non fare la bomba atomica. Senti, io ti dico questo: nel 91 Netanyahu, durante la prima guerra del Golfo, senti cosa mi diceva in un faccia a faccia. Parla di pressioni esterne, parla delle pressioni americane? Israele vuole la pace, l'ha sempre voluta, e che siamo di fronte però a una regione veramente brutale, i Saddam, gli Arafat, i Gheddafi, che sono stati tutti in combutta, vi sono problemi di sicurezza reale, il nostro problema di sicurezza reale, noi potremmo scomparire come il Kuwait. Signor Netanyahu, ma la presenza americana nella regione garantisce o no in modo definitivo la sicurezza di Israele? Se non ci fossero stati, noi eravamo pronti ad agire, avevamo il potenziale per agire. Non abbiamo agito per tutta una serie di calcoli, di motivi. Signor Netanyahu, ma comunque se queste trattative andranno per le lunghe, l'opinione pubblica mondiale potrebbe non capire perché ci sono risoluzioni dell'ONU di serie A da applicare subito, giustamente, come quelle contro Saddam Hussein, e altre di serie B che possono aspettare anche 20 anni, come quelle che riguardano i territori occupati. Non è un problema questo di immagine pubblica, di immagine mondiale, secondo lei? Per Saddam Hussein si diceva ritiro incondizionato, mentre la 242 poneva una serie di condizioni. Parlava di territori, ma non di tutti i territori. Israele ha già restituito il 91% dei territori occupati. E poi diceva restituzione in cambio di sicurezza e di frontiere sicure. E poi negoziati di pace. Queste condizioni non sono state assolte. Dottor Minoli, non lo so se il mondo ha compreso veramente qual è la situazione di Israele dopo la fine della guerra del Golfo. Forse se ne sono resi conto di più negli Stati Uniti, ma anche molti europei se ne sono resi conto. Ricevo delle lettere in questo senso. Noi vogliamo la pace, questa è la cosa importante. Ci siamo sacrificati per la pace, noi cerchiamo la pace. Cerchiamo ogni opportunità, ogni leader arabo o palestinese disposto a cercare la pace. Ma se questo non viene compreso, devo tornare a citare Golda Meir, che diceva: se devo scegliere tra l'essere popolare, amata e morta, e impopolare e viva, sapete bene quello che sceglierò. Ricordo che il nostro numero verde è 800 24 00 24, gli sms 349 238 6666. Fiamma, sono passati 23 anni da quell'intervista, mi sembra che il pensiero non evolva, sia sempre quello. Ma ecco. No Giovanni, è che la situazione purtroppo di odio nei confronti di Israele semmai è peggiorata nel corso di questi anni. Anzi, ti devo fare i complimenti. Si tratta di un'ottima intervista in cui le risposte che vengono date sono risposte molto sensate. Quando, tutti gli esempi che lui fa degli stati aggressivi nei confronti di Israele, insomma, purtroppo resistono anche oggi con delle modificazioni che secondo me sono legate proprio a questa situazione iraniana. L'Iran che ha cambiato posizione, ma l'Arabia Saudita, se vuoi. L'Arabia Saudita, questo ne parliamo dopo. Abbiamo una telefonata a Claudio da Prato. Rapidamente, buongiorno. Intanto saluto la signora De Fiammetta, con cui ho avuto già il piacere di scambiare le opinioni in merito. Ma il problema rimane sempre il solito: l'intervista della Meyer è perfetta. Israele non può non avere la superiorità in qualche maniera che gli garantisca una certa quale, come dire, ombrello di sicurezza. Certo che il mondo è più insicuro oggi, ma dal punto di vista israeliano, perché è evidente che i sistemati, come sono stati sistemati, poi è paradossale parlare delle risoluzioni dell'ONU nella questione israelo-palestinese, in cui le non sono mai state altro che disattese. E l'abbiamo detto, lo ringrazio. Fiamma, ecco, hai sentito? Non ho sentito l'ultima cosa, ha detto che che le risoluzioni dell'ONU sono state sempre disattese per quanto riguarda i territori. Ecco, questi sì e no, perché c'è un dibattito attuale, per fortuna ancora le due delegazioni siedono una di fronte all'altra, su quelli che nella risoluzione dell'ONU vengono chiamati non territori occupati, ma disputed territories, territori disputati, perché c'è per Israele una questione di sicurezza spaventosa, per cui se tu dai via, per esempio, che ne so, i territori attaccati all'aeroporto Ben Gurion, è evidente che da Israele naturalmente non si muove nessuno. Sono parecchi anni che, diciamo, quella risoluzione dell'ONU è stata presa. Mario, c'è Mario Secchi che ti vuole fare una domanda. Fiamma, scusa. Mario Secchi, buongiorno. Ciao Mario. Ciao. Senti, ma poniamo il caso che l'accordo non fosse stato raggiunto. Gli iraniani avrebbero continuato sicuramente ad arricchire uranio. Come li fermavi? Opzione militare? Guarda, Mario, l'opzione militare ti ricordo che è stata quella di Obama fino a ieri, cioè insomma, non è che l'opzione militare è una pazzia sognata nottetempo, no. Perché qua bisogna partire da un punto che mi sembra che non sia interamente acquisito, ovvero che la bomba atomica in mano di questo regime che impicca gli omosessuali, lapida le donne, mette in galera e ammazza la gente a go-go, va bene, e che promuove le milizie che affiancano Bashar Assad, più una quantità di terrorismo in tutto il mondo, è una cosa molto insicura. Senti, mi dici... Quindi bisogna partire da questo, che bisogna evitare che loro abbiano la bomba atomica. Fiamma, ecco. Ma senti, mi pare che questo accordo vada in questa direzione. Mi dici come cambierà il Medio Oriente rapidamente, secondo te? Allora, è già molto cambiato, siamo in una grande rivoluzione. Dunque, prima di tutto ti voglio citare quello che hanno detto i sauditi, i quali si sono anche riuniti con tutti i paesi sono preoccupati Qatar, anche loro, eccetera, e hanno detto: noi non ci lasceremo mettere sotto da questo accordo che il mondo intero fa col nostro principale nemico. Loro, come sai benissimo, sono sunniti, mentre l'altra parte è sciita, e c'è un grande scontro tra le due parti. Quindi i sauditi hanno già minacciato una atomizzazione. Vogliono la bomba atomica anche loro, seguiti dall'Egitto e dalla Turchia. Quindi il grande problema è questo, di trovarsi di fronte a un Medio Oriente atomico in cui i due gruppi religiosi basilari siano ambedue armati. Dici la garanzia per il Medio Oriente è che la bomba atomica ce l'abbia solo Israele? Ma guarda, Israele non ha mai detto, come hanno detto gli iraniani, eccetera, che c'è qualche paese che deve essere distrutto e raso al suolo. No, d'accordo, non ti ho fatto un'altra domanda. La democrazia. Guarda, Fiamma, ti ho fatto una Pakistan. Sì, no, ma ti ho fatto un'altra domanda. Fiamma, scusami, no, perché sennò penso di sì, Giovanni, penso che sia una buona garanzia. Pensi che la garanzia del Medio Oriente, dell'equilibrio del Medio Oriente, stia nel fatto che solo Israele abbia la bomba atomica? Israele non ha mai minacciato nessuno. Minacciato nessuno. E non lo farà, perché la democrazia glielo impedisce. Ha invaso, però. Capisci, Giovanni, questo va rimesso in auge, questo va guardato negli occhi, questo fatto. Questi paesi, va bene, sono paesi fascisti, ok? Israele è un paese democratico, c'è una grande differenza. Non c'è dubbio. Mix 24. Come ogni altra nazione, l'Iran dovrebbe avere la possibilità di accedere all'energia nucleare. Era Obama, sono le 9:35:09, il nostro numero 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Professor Arduino Paniccia, autore del libro Trasformare il futuro, professore di studi strategici a Trieste. Professore, ecco, quanto tempo ci vuole tecnicamente per arricchire l'uranio a un livello e a una quantità sufficiente per fare una bomba atomica? Beh, dipende buongiorno, dalle condizioni intanto. In cui è il paese che lo vuole fare. Se vogliamo andare nel caso diretto, diciamo che nelle condizioni in cui oggi l'Iran ci mette circa 18 mesi. Questa è una previsione, naturalmente potrebbero essere 2 anni, come potrebbero essere anche un po' meno. Ma però in 1 anno e mezzo ce la potrebbero fare. Naturalmente, se non diventasse definitivo l'accordo che è stato fatto ieri, che dice mantenere un livello di arricchimento dell'uranio al 5%. Certamente, questo è l'accordo. L'accordo non è un accordo definitivo, come ha detto lei, è una opzione, è una possibilità. Sta poi ai negoziatori, che naturalmente si sono molto battuti per questo, il segretario Kerry per primo, ma anche il ministro russo Lavrov. Ecco, sono stati loro poi in fondo i protagonisti veri, sì, di questo accordo? Assolutamente, tutto meno. Sono stati loro con nell'ombra, ma naturalmente questo lo doveva fare per lei il ministro degli esteri iraniano, seguiva una linea già tracciata dal presidente Rouhani, che comunque è una linea molto diversa, e poi nell'ombra anche Wang Yi, il ministro cinese, che non appare molto, ma che invece è stata una parte assolutamente attiva nella vicenda iraniana. Ma quindi il fatto che l'Iran deve mantenere il livello di arricchimento dell'uranio al 5% è un punto fermo, almeno per questi 6 mesi? Sì, è il punto, perché se sale, loro hanno già, naturalmente questo lo sappiamo, 110-120 kg, forse anche di più, di uranio arricchito, che potrebbe già servire per il militare. Tenerlo sotto i 5 significa che adesso devo andare soltanto sul civile, e questo è fondamentale, ma ancor più fondamentale. Ed è quello che gli iraniani dicono di aver ottenuto, di poter conservare, sì, il diritto di fare il nucleare civile. Certamente, questo lo possono conservare. Un particolare che però è anche abbastanza passato sotto traccia, ma che invece secondo me è fondamentale, è che lo stockpile, quindi tutto il deposito che hanno di uranio già arricchito, in realtà deve essere di nuovo depletato, deve essere diminuito e portato sotto la soglia del 5 nelle prime 4 settimane prima che entri in funzione l'accordo dei 6 mesi. E questo è un elemento fondamentale, perché se mantengono il deposito ancora arricchito, questo può tracciare i pericoli per, ecco, il futuro molto forti. Se invece effettivamente nelle prime 4 settimane lo riducono, allora questo vuol dire che c'è la vera volontà di andare. Ecco, ma l'Iran non dovrà eliminare le scorte di uranio al 20%? No. Cioè le può usare come combustibile per, sì, i reattori? Sì, lo riporta, certo, Yellow Cake, quindi lo riporta una base per combustibile di reattori civili, ma non lo deve distruggere, non deve distruggere né le centrifughe. Diventa combustibile per i reattori. Diventa combustibile, certamente deve fare l'operazione inversa e riportarlo sotto i 5. Ah. Quindi questo però è fondamentale che lo faccia, ripeto, nelle prime settimane. Subito, da fare subito. Esatto, è la volontà, da lì si capisce la volontà iraniana, lo vediamo subito. Se lo fa e poi viene intenzionato. È la linea, che è quello che dice Peres, abbastanza chiaramente. Buttafuoco ha una domanda. Professore, sì, certo, buongiorno, mi scusi. Eccomi qua, caro dottore. Eccomi. Posto che il problema nucleare sia fondamentale per la Repubblica Islamica dell'Iran, al di là di quelle che possono essere le interpretazioni viste con l'occhio dell'Occidente, lei prima ha fatto riferimento sul lavoro realizzato dai ministri degli esteri. Possiamo dire che ormai si è spostato il perno fondamentale dal Medio Oriente ad una posizione eurasiatica, dove l'Iran diventerà poi il soggetto interlocutore principe in questo passaggio tra l'area del Mediterraneo e l'Estremo Oriente? Certamente, questo dipende da un fatto però che anche, è rimasto anche questo abbastanza nell'ombra, ma che secondo me è fondamentale per il cambiamento della geopolitica in quell'area. Ecco. Se gli americani diventano con il fracking autonomi, esatto, da tutti i punti di vista, entro 3 anni, e il Medio Oriente cambia completamente faccia. Quindi, certo, questo lo sanno i sauditi, lo sa l'Iran, ma lo sa anche Israele. È inevitabile, cambierà quella cosa lì. E questo l'Iran diventa uno dei riferimenti dell'area, sicuramente eurasiatici. Chiedo scusa. Sì. E ancora una domanda. Appunto, lei ha fatto riferimento ai sauditi, ma mi potrebbe spiegare, cercherò di spiegarlo anche a me stesso, perché mai si ritengono attendibili come interlocutori dal punto di vista dell'Occidente i sauditi e non invece l'Iran, che ha una lunga consuetudine, perfino culturale, con l'Europa? Questo è stato dovuto alle alleanze relative proprio al problema del petrolio. Un fatto politico legato al petrolio. Ecco, certo, ma i controlli dell'Agenzia Atomica Internazionale delle Nazioni Unite saranno controlli definitivi, attendibili, veri, possibili soprattutto? Possibili certamente, attendibili abbastanza, definitivi no. Perché se sotto vi è la malizia non c'è nessun controllo che possa servire. Ma questo nel giro di 2 settimane, 3 settimane si saprà. Certamente, io sono di quest'idea. E lei è ottimista o pessimista? Io sono abbastanza ottimista perché sta cambiando la mappa della geopolitica. Per le cose che abbiamo detto prima. Grazie, grazie professore Mario. Ecco, un po' l'abbiamo accennato, ma l'America di Obama, che punta oramai con chiarezza alla indipendenza energetica, sta perdendo interesse per il Medio Oriente, un po' quello che diceva anche il professore. Sì, ma è chiaro che il domino e il risico sono quelli dell'energia, è evidente. La rivoluzione tecnica dello shale gas è enorme. Gli Stati Uniti già oggi hanno ridotto di gran lunga... Shale gas vuol dire, per spiegare, vuol dire che si va verso la indipendenza energetica degli cercano Stati in casa Uniti. Loro e lo trovano tra e l'altro. Quindi non hanno più bisogno del petrolio medio orientale, hanno bisogno di meno petrolio, sempre meno le scorte di petrolio americano sono ingenti, ovviamente, quindi sta cambiando tutto. Aggiungo un altro elemento, che l'opzione militare diventava sempre più improbabile. Gli americani insieme agli israeliani provarono a fermare le centrali prima con la guerra attraverso i computer, la cyber warfare, con un virus che si chiama Stuxnet, e infatti attaccarono la centrale di Nazam con questo. Naturalmente non hanno fermato l'arricchimento. Un'opzione militare in Iran è difficile, perché parliamo di un paese grande quasi quanto l'Alaska, ha 80 milioni di abitanti. La storia militare ci insegna che con i bombardamenti non fermi tutto, e bombardare nuclear facilities è molto rischioso. È per questo. E quindi la strada è una strada obbligata, in qualche modo, non aggiungo, può che essere questo. Aggiungo, e faccio professione, diciamo, di realpolitik, che se l'accordo funziona, è un bene alla fine che in qualche maniera vi sia un campione regionale, diciamo, in quell'area, perché altrimenti noi continuiamo ad avere una situazione per cui da 40 anni non c'è nessuna stabilità. Abbiamo visto l'intervista di Netanyahu 22 anni fa, diceva le stesse cose. Naturalmente Israele fa bene ad essere preoccupato, perché trattasi di posizione geopolitica più che legittima, ma la prova di tutto, come dicono gli inglesi, è nel budino, cioè lo vediamo tra poco. Quando mangeranno il budino andranno a vedere cosa fanno realmente gli iraniani con le riserve di uranio che hanno, quello che diceva Paniccia. E sappiamo che tra poco si saprà. Cambiamo pagina e... musica che rilassa, fantastica, mi sembra Chopin. Chopin. E come mai oggi Chopin? E come mai? Perché grazie al fatto che ogni tanto si viaggia superando l'Alto Adige, avrebbe detto qualcuno, gli amici e i colleghi della Radio Svizzera Italiana hanno realizzato un'operazione meravigliosa, che è il racconto di Chopin fatto da Checco Zalone. Addirittura. A proposito del festival di Chopin che si fa nella sua Puglia. Sentiamo. Poi ci ha rivelato l'arma vincente del festival, ciò che lo caratterizza rispetto a tutti gli altri. Per esempio è venuto il maestro Pollini sul Bol Tempi, ragazzi, non lo consiglio a nessuno, è terribile, l'hanno cacciato, l'hanno preso. Perché a Rau, racconta a Rau che fece. Raul, chi? A Rau, che cosa fece? Sì, sì, sono Arrauri, sì, non, venne lì e disse dove non lo sapevo manco accendere il buon tempi. Appena non sapevo dove stavo, gli dissi io sta on off sul buon tempi e parte la ventola e lui non lo sapeva. Quando vidi questa ignoranza ad Alberobello gli tirarono i trulli appresso, piccole statuine, sì, diciamo, gli tirarono un trullo in faccia lì, gli arrivò. Lo cacciarono. Mentre Horowitz, va detto che noi avevamo ospitato in una delle prime proprio edizioni del festival, ci ha fatto una cosa brutta. Io sì, la vorrei sottolineare, dino, quella radio svizzera. Noi gli avevamo dato questo trullo e siccome non c'era l'angolo cottura, si rifiutò. No, guarda, un cafone. Un cafone. Da qui poi il detto che non è tutto Horowitz quello che luci cazzo. Esatto. 800 24 00 24 il numero verde, sms 349 238 6666. Pietrangelo, questo scoop da dove arriva? Questo scoop arriva dalla radio svizzera italiana grazie ad un'idea di Maria Rosa Mancuso ma che oltre ad essere quel grande critico cinematografico qual è? È una persona di grande spirito. Chopin commentato da Checco Zalone, davvero uno scoop. Ma è bellissimo. Ma che cosa bolle in pentola oggi? Allora, ma intanto restiamo nell'area euroasiatica. Mi sa che dovremmo parlarne molto, sì, in questo parecchio, periodo. Parecchio, perché oggi alle 17 dovrebbe esserci la visita di Vladimir Putin a Papa Francesco. Sono stati protagonisti, come ricordato in apertura di trasmissione, del mancato intervento in Siria. Quindi no war, della diciamo, pace. E della pace. Della pace, parleranno, della non guerra. Esatto, parleranno dei rapporti ovviamente tra Russia e Vaticano. Si prepara l'incontro anche con la Chiesa ortodossa. Vediamo poi se questo sarà... sarebbe veramente un fatto assolutamente sì, storico. Vediamo, tra l'altro, perché c'è Bari tra delle città candidate, come sappiamo tutti. Bari è San Nicola, quindi Pietrangelo. Anche se Bari sarebbe. E quindi è Babbo Natale. Babbo Natale. Anche se Bari sarebbe casa degli ortodossi, perché è una scelta, sì, come dire, precisa, non neutra. È una scelta non neutra, precisa, e si accompagna anche a quello che è la meta di pellegrinaggio di milioni e milioni di persone che vengono dal mondo slavo proprio per pregare nella cattedrale che accoglie le spoglie del santo. E naturalmente dovrebbe esserci sempre il condizionale d'obbligo in questi casi, le agende diplomatiche possono cambiare, ma anche un incontro tra il nostro amico Vladimir e l'altro grande amico di Vladimir, che è Silvio Cribio. Ma cosa fate? Gli porterà il passaporto. Che non già può... perché questa è la teoria. La teoria di buttafuoco. Senti. Ammazzo. Allora, perché queste campane? Perché oggi c'era un pezzo molto negativo sul Wall Street Journal, un pezzo sul governo. Letta dice che sì, è ottimo per tenere sotto controllo gli interessi sui titoli di Stato, ma è pessimo sulle riforme economiche e il lavoro, e dice, ahimè, nel titolo dice, l'unica stabilità mantenuta è quella del cimitero. Terribile. Quindi è veramente una campana morto che si associa brutto, a quella brutto, di Renzi. Brutto. Mondo del business. Serve gente povera, furba e affamata, senza sentimenti. E se vuoi un amico, prendi un cane. Hai visto? Terribile. Era Gordon Gekko, tanto per intenderci, il primo Wall Street. Perché? Perché appunto il voto svizzero è stato ricordato anche nei GR, ma è importante perché è una cosa culturale da sottolineare. C'è stato un referendum che non metterà limiti agli stipendi dei dirigenti, quindi nessun limite alle paghe. È molto importante perché gli svizzeri pensano che questo danneggerebbe la competitività del paese. Quindi no tetti ai no top manager. Tetti. La cosa interessante è che tutti dicono ma quelli sono i popoli del nord. Però se tu vai in Germania, un recentissimo sondaggio di qualche giorno fa dice che invece i tre quarti dei tedeschi metterebbero assolutamente il tetto ai compensi dei manager. Quindi paese che vai, stipendio che trovi, esatto. Ma insomma, è un tema interessante. Sì. E d'altronde si prendono un po' tutti a pugni. Allora, mamma mia, hai visto ieri il Campidoglio? In Campidoglio, mi sembra. Campidoglio, che ogni consigliatura ha il suo ring, cari amici. E d'altronde, diciamoci la verità, non è bello prendersi a pugni, ma quello di cui stanno discutendo è assai grave. Cioè, noi parliamo. Sento cosa c'è? Musica di Salamini. Mamma mia. Odor di Salamini. Pietrangelo, il Salamino oggi è musicale a maggior ragione dopo Chopin. Beh, è musicale a maggior ragione. Ieri c'è stata una straordinaria prova generale al Teatro dell'Opera di Roma, la bacchetta di Riccardo Muti per l'Ernani, però di debiti. Ma no, non è vero. Debiti, guai, storie, sindacati, rischia d'arte. Di saltare, rischia di saltare l'Ernani e quindi non salterà sicuramente. Non salterà perché Riccardo Muti saprà come fare, sì. Però solidarietà a Muti perché le molestie sono insopportabili, a maggior ragione perché si dimentica spesso che la cultura, la produzione di cultura, la bellezza e l'arte sono economia e commercio, sono soldi che arrivano agli italiani e quindi si preservate mangia, la mangiare. Cultura. Ma si tu sei mutista o mutiano? Io sono Isottiano, io sono quello che dice Paolo Isotta faccio. Io amo Muti. Vabbè, ecco, vabbè. C'è ancora una... un paio di bolle. Una. Vai. Allora, questo è il sottofondo delle vite degli altri. Parliamo di spioni, ma in chiave high tech. Ne sanno qualcosa quelli di Wilk? È un sistema criptato di messaggeria che, dopo le rivelazioni di Snowden sull'NSA, insomma, stanno crescendo tantissimo. Hanno trovato finanziatori, faranno concorrenza a Skype. La cosa divertente è che nel consiglio e tra i venture capitalist è pieno di gente che ha lavorato con la CIA. Ed è questa musica, Gloria Gaynor, perché? Perché oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Se qualcuno fa qualcosa di male, il consiglio è questo: cacciatelo. Grazie, dopo il giornale radio torna Mix 24 con la storia a cura di Marina Milone. La notizia in 3D è stata curata naturalmente da Sara Tardelli. Oggi ricordiamo la crisi tra Stati Uniti e Iran degli anni 70, i famosi 444 giorni di prigionia che sono seguiti all'assalto all'ambasciata americana a Teheran il 4 novembre del 79. Dopo il giornale radio.